Grazie. Sì, avanti, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, sono scala 10 adesso, eh. Ehi, c'è qualcuno qua sul 10? Sì, avanti. Sì, registrato, beh, Giovanni, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, sono sul canale 10, chi è entrato? Avanti il break. Sì, ciao Claudio, ben sentito. Come l'ascolti a Giovanni, che le ho dato un microfono amplificato? Ecco, adesso parla Bracco, da Sassari, vicino a Roberto, dimmi come mi senti, K. È bella amplificata, lo sento. Ehi, ok, rispetto alla mia, più bassa, molto più bassa, non parliamo di segnale, di coso, di modulazione, lui più basso o più alto risulta? Già lo grido, gli ho dato un M93, adesso un'altra musica. Volevo sentire qualcuno qua vicino per fare il confronto, oltre a lui, per vedere. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Eccomi, voglio accogliere, ciao a tutti. Ciao anche io, Luca, come l'ascolti a Giovanni? Avanti Giovanni per lui. Ok, Luca, come mi senti? Sono Bracco, Brizzo Bracco. Racconto benissimo, 9, 10, radio 5. 9, 10, radio 5. Ecco, la radio è più piena. Avete parlato in due, aspetta un attimino, prima Luca, poi c'è anche Fabio. Prima Luca, un rapporto di radio a coso, a Bracco. 9, 10, radio 5. Vai Marco. Il segnale alla radio più piena, quindi 5, vorrei vedere il segnale, vediamo. Ok, ripeto, sono Bracco, dimmi come mi stai copiando. Guarda questo microfono, Roberto, e lo sto provando, boh. Sì, il segnale è sempre 9 più 20. Ok, Robert, riprendi tu. Ehi, c'è anche Fabio, avanti Fabio. Eccomi, 9.30 da 25, tonda. Va bene, dai, perché c'era una radio con microfono normale. Luca, questo è il Mobicom. Sta facendo bene. Dai, l'ho fatto mettere al massimo, non so, ormai provando a abbassarlo un pochettino, però già va abbastanza bene, meglio di prima. Dai, c'è anche Claudio da Muros, vediamo se lo copiate. Avanti Claudio. Eia. Marco, ti devo dire qualcosa. Dimmi Robè. Allora, lo copio e chiedo al raggiunto. Buonasera, ben sentito. Dimmi. Allora, se alzi la testa nel cielo, se c'è ancora, c'è la stazione spaziale, la vedi, mai vista così chiara e pulita, limpida, sembra che ci sia un faro nel cielo, una cosa spettacolare. Ho provato a collegarmi, però è sopra il Kazakistan in questo momento, per cui si sta allontanando, sta andando verso la Russia. C'è una luminosità nel cielo, se tu la vedi, poco fa c'era l'imbrunire, diciamo, il crepuscolo. Tu vuoi vedere come si vedeva, ho fatto la fotografia, mai vista una cosa del genere, così luminosa in cielo, sembrava un oggetto extraterrestre. Il cavolo, a saperlo, è ormai che direzione è scomparsa, verso giustamente est, no? Perché io c'ho ovest a vista, ma est è tutto coperto, purtroppo. No, prova ovest, verso ovest, guarda, tu e alzi lo sguardo se c'è ancora, vedi una cosa, perché oggi il cielo non si vedevano ancora le stelle quando sono sceso poco fa, un'oretta fa, tre quarti d'ora, c'era ancora, non era il cielo nero completamente, vedi questa cosa nel cielo, sembra quando passa un aereo luminoso, diciamo, illuminato dal sole, guarda una cosa mai vista, infatti ho fatto la foto, ti stavo cercando poco fa per avvisarti, però sono entrato su 145-800, no, non è sopra di noi, per cui non la possiamo ricevere. Ok, avanti Giovanni e poi fa girare per Fabio. No, adesso io già lo sai, io sto rientrando dalla campagna, sono crepato, tutto il giorno tagliando erba, stavo. Quindi adesso vado a fare carica batterie. Perciò vi lascio, eventualmente rientro più tardi. Ok, Bracco, diciamo, va a caricare le batterie, perché ce le scariche, e quindi per forza di cose va andare. Ciao, ciao a tutti. Ciao Bracco. Buona ricarica, ci siamo presto, ma magari anche più tardi. Avanti chiodo per i saluti. Sì, al 100%, l'ho guardata adesso, dai, qualche mezz'ora fa l'ho guardata ed era sul Kazakistan. Adesso Mare, io non so se abbia fatto in tempo a fare tutto il giro, ma mi sembra strano. Ci vuole per fare il giro completo, fa in 24 ore fa 9 giri, non lo so se ce la fa arrivare sull'Africa in mezz'ora. Può darsi pure, non lo so, prova a vedere, magari è già passata, può darsi pure, non lo so, non insisto. poco fa, diciamo mezz'ora, tre quarti d'ora fa, era sopra il Kazakistan, stava superando tutta la Russia, ti hai presente che va a 28.000 km orari, per cui in un'ora fa 28.000 km, è possibile che sia sull'Africa sicuramente, però mi ha colpito la grandezza prima di tutto, è una cosa enorme, e poi la luminosità, è come che vedi una stella però lunga, allungata, è più di 100 metri di lunghezza la stazione spaziale. No, io volevo ascoltarla perché ancora non ho avuto la possibilità, è capitato in orari strani, non sono riuscito ad ascoltarla. Tu magari col computer l'ascolti in diretta, però volevo ascoltarla col ricevitore, era una cosa che volevo fare. Marco ci è riuscito, però sta passando in orari troppo strani, verso le 3 di notte, alle 2, orari un po' fuori norma per me. Sì, lo so, c'è 145-800, c'è anche altre frequenze, però tu la ricevi quando passa sopra l'Europa, sopra l'Italia, se no non la puoi ricevere, è impossibile. Ok, c'ho il QRM a bomba oggi, non lo so per quale motivo, già un paio di giorni. Avanti Fabio. 145-800, e come modula? In FM stretta modula. Ah, bene, bene. Adesso lo metto in memoria, magari riesco a beccarla con lo scambino. Io l'ho messo, non sente niente. 145-800. No, non c'è niente, sono acceso io, non c'è nulla, è completamente fuori portata da noi. Bisogna vedere a che ora passa, bisogna guardare l'orario di passaggio. In Italia normalmente sta passando tardi, in orari le 2, le 3 del mattino. Certe volte è capitato alle 10 del mattino, ma è raro, hanno fatto dei collegamenti le scuole, una scuola, un istituto professionale si era collegato con quell'astronauta italiano. No, è una soddisfazione perché non è che capita tutti i giorni di ascoltarla, di collegarla. C'è una persona, Marco Scorpio, lui è uno di quei pochi al mondo che è riuscito a collegarsi proprio a parlare lui. Sì, infatti quello lì mi riferiva a quello, ma ci sono gli altri astronauti, ce ne sono sempre continuamente, parlano continuamente. Se vuoi ascoltare poi ci sono anche altre frequenze, ci sono anche le frequenze, però ci vogliono antenne molto direttive in gigahertz, mi sembra 1200 o 1300, adesso mi ricordo, si può ascoltare, poi a 436, però la più comune è 145-800 FM stretta. Marco l'ha ascoltata, Marco ci sei? Purtroppo ho guardato, ma qui sono il piano rialzato, tutto il palazzo, un po' non posso vedere niente. Sì, ai tempi delle scuole era anche troppo facile sentirla. Che dire? Un attimino, ero un po'... Mi ero addormentato al baracchino prima, lo sai, sono crollato perché ero dal pomeriggio al baracchino. Sì, allora stavo dicendo che tu l'hai ascoltata, io ancora non ho avuto il piacere, vabbè, se voglio mi metto, devi tentarla, quando ti passa sopra devi guardare l'orario in cui ti passa, la devi seguire e già la prendi, con le antenne e con il ricevitore a Puglia che lo prendono, l'hanno preso anche con degli scannerini portatili, figurati, con le antenne esterne e con il ricevitore professionale a Puglia che rubiglio. Però è sempre in orari strani, devo trovare un momento opportuno, però non l'avevo mai vista così bene, ti posso dire erano le 9 del pomeriggio di poco fa, adesso sono 9.56, alle 9 c'era quasi buio, non dico completo, le stelle ancora non si vedevano, perché in lontananza vedevi le ultime luci del tramonto, dai, ed era chiara, infatti ho detto che cazzo è questo, poi ho alzato lo sguardo, non ho visto nessuna stella, ho detto no, questa è la stazione spaziale, ho fatto una bella foto anche se è molto lontano, e vedevi questo cilindro con questa protuberanza in alto, e ho detto cavolo, proprio illuminato a argento era questa cosa, illuminata dal sole. Ma io ho qualche link, come te lo posso passare, Robè? Ah, vabbè, già c'ho qualcosa, poi su internet ti trovi tu, ma riguardo che cosa ce l'hai link tu? Quale posizione? No, era per darti così, per farti sentire il video di quando ho registrato a Piazza dei Segni, quando faceva i collegamenti in Espoli con le scuole. Ah, vabbè, ma fatto da te o ho registrato da YouTube? Cioè, fatto da me e messo su YouTube, antenne veicolari, più o meno buone, una era più buona delle altre, eccetera. Naturalmente non senti la scuola, perché la scuola poi è a centinaia, se non un migliaio. Quando era sopra l'Italia, mi sembra una scuola, non voglio dire fesserie, mi sembra in Toscana o Napoli, forse Napoli, dai. Ne hanno fatte tante, infatti io dopo tre registrazioni mi sono stufato, alla fine, cioè... mi ricordo solo che passava tipo il mattino o il pomeriggio e riuscivo ad arrivare a Piazza Lessini puntualmente in ritardo, cioè arrivavo che era appena già iniziato il collegamento, capo. E dura 10 minuti il passaggio, poi il punto massimo ce l'hai entro i 10 minuti, poi piano piano scompare, non riesci, se c'è una bella antenna magari riesci a tenerlo un po' di più, ma se sei con uno scannerino dura un paio di minuti il corso. E anche a meno. Io utile, in una erano 7 minuti utili, nell'altra 5 qualcosa. Antenne veicolari di vario tipo, sia magnetiche sia vabbè dai, veicolari, fai girare che sono in ascolto, che sono abbastanza stanco. Bianco un attimo. Luca. Boh, io sono uscito poco fa, mi stavo facendo vedo la luna. Tu da che parte stai guardando? Guarda verso Alghero, Luca. Verso Alghero mi viene male. Ma adesso lo sai cos'è? C'è inquinamento luminoso, magari sono tutte accese le luci, magari la confondi con una stella, però la vedi un bel luminoso, perché è una cosa diversa dagli altri, lunga. Poco fa c'era il cielo bianco, nel senso non c'erano ancora le stelle, perché c'era troppa luce, e si vedeva appena appena gli ultimi colori della sera, dai, prima di cosa, del tramonto, di quel rossiccio, dai, che vedi da lontano, e poi ha fatto lo sguardo, che cos'è questa storia? Sembrava un aereo di quelli quando vedi un aereo che ti sta arrivando diretto, a bassa quota in fase di atterraggio, che vedi illuminato dalle sue luci, questa invece era ferma, fissa, questa è la stazione spaziale, sta a 400 km, in quel momento lì era sul Kazakistan, figurati, e io la vedevo perfetta, chiara. Vabbè, ma da computer dove devi andare? Tu scrivi stazione spaziale ISIS, scrivi stazione spaziale internazionale in italiano, poi posizione, e ti dice dove ti appare la mappa, e c'è il mondo, la Terra, tu puoi ingrandire, la vedi proprio che si muove durante, come un mappamondo, tu vedi questa cosa che cammina e segue una rotta, è sempre più o meno quella la rotta, di poco può variare, dai. Però la rotazione è sempre in quel senso lì, va da ovest verso est, nel senso di rotazione. Cosa devo scrivere? Dimmelo piano. Stazione spaziale internazionale, e poi ti dà tutte le pagine, ricerca, posizione, eccetera, e poi ci sono tutti i dati, frequenze, eccetera. Oppure metti ascoltare stazione spaziale internazionale. Allora qua c'è ESA, la stazione spaziale internazionale Europa-Italia. ISS si chiama, International Space Station. ASI? IS, Imola, Sassari, quindi adesso si è spostato. Mari, c'è il rischio che Mozambico, hai detto, aspetta, no, siamo troppo giù noi per prenderlo, no, Sudafrica è una cosa, Mozambico è un'altra. Poi c'è anche la stazione, Marco, c'è anche la stazione spaziale cinese, non so se lo sapete, c'è anche quella cinese. Di quella non so nulla, sai che sito beccavo io per tenere d'occhio l'orbita, per farmi le registrazioni, questo, vabbè, https://www.n2yo.com, n2yo.com. Certo, sullo smartphone lo vedi piccola la mappa, però sul computer normale o portatile, Windows era tutto schermo. Tu ti stai confondendo comunque, Claudio, adesso in questa posizione nel Cile, nel Sud America. Guarda, sto guardando in tempo reale adesso, è proprio nel Sud America, la parte bassa del Sud America, e si trova nel Cile, nel pezzo del Cile, in tempo reale, lo sta attraversando in questo momento il Sud America, adesso è quasi sul mare, te lo dico in tempo reale, questa è quella della NASA, l'indicazione, la mappa della NASA. Robè, qua mi risulta il Malawi, sopra un lago, è sul Malawi. No, a me mi sta dando Rio Galegos, in questo momento sta attraversando il coso, l'oceano, adesso è già sull'oceano, questo è in tempo reale, ISS Tracker di Jacopo Borancini, ESA, questo è della ESA, ente spaziale europeo, che ha elaborato in tempo reale, dati in tempo reale, elaborati con l'algoritmo di ISIS Tracker, da Jacopo Baroncini, ESA, questo è quello in tempo reale, adesso sta spandando sulle isole Falkland, sta superando, ci sono due camere collegate, ce ne sono due camere, quello della NASA io sto guardando. Robè, anche a Luca gli dà Sudafrica comunque, ho visto la foto. Non lo so io la sto guardando in tempo reale, si sta muovendo ed è sopra, quasi sulle isole Falkland, giù nel Sud America. Alfa, segui il tuo istinto, segui il viaggio della stazione spaziale internazionale Alfa. Aspetta, Alfa proprio il sito che si chiama. No. Luca, cosa ti risulta? Tanzania adesso? Oh, si sta muovendo, aspetta, si trova... Allora, aspetta... si trova a Fonapoli, era a Mitanza. Ma dico Africa, dalla parte destra. Parte destra, sì. Adesso è a Mane Romango. Adesso è Kisarawi. Che nomi strani, tipo Te la pongo. Spingo, adesso è Giambiani. Vabbè, c'è qualcosa che non quadra, o sta sbagliando a noi il programma, io lo vedo in movimento, è a destra della Tanzania o Tanzania, com'è possibile che a te la indichi Sud America? No, l'ha già superata l'America, adesso sta andando nell'oceano, adesso tra un po' dovrebbe incontrare l'Africa. Come fai a essere stata sull'Africa? Allora forse sono in ritardo le immagini vostre, questo è in tempo reale perché si sta muovendo, ha già attraversato il continente sudamericano e americano, adesso è nell'oceano, tra poco incontra l'Africa. In tempo reale si vede proprio muovendo, io sono mappa satellite, non sono in disegni o cose così, questo è proprio in tempo reale. Ma cosa vedi? Qualcosa rosso che si muove? No, c'è proprio la stazione, c'è il mare, adesso lei è blu, c'è disegnata la stazione spaziale e si muove. Ho messo satellite, qua c'è scritto dati in tempo reale, elaborati con l'algoritmo ISS Tracker di Jacopo Boraccini dell'ESA. Questo è in tempo reale, io l'ho visto altre volte questo. Sulla tua destra ci sono i nomi dei paesi, lo vedi sulla tua destra? Cioè sulla tua sinistra, scusa. No, è ancora in mare, non è ancora arrivato, ecco, adesso vedete quanto ci impiega proprio a ingrandire, quanto anzi a ridurre, quanto gli manca arrivare in Africa. Non so, io vedo quella specie di, io la chiamo goccia, là, non so, una specie di qualcosa rosso che c'è, che abbiamo su Google Maps, non so se ce l'hai presente. Ma non è che voi vi state guardando la rotta, magari vi fa vedere la rotta passata, perché questo è in tempo reale, magari voi avete visto, registrato un altro passaggio, magari non è in tempo reale, è per quello magari che non corrisponde a questo qui, perché questo è quello della NASA, è così, cioè l'Atlantico meridionale, se tu ingrandisci la vedi proprio muoversi chiara a chiara, ce ne deve fare ancora di strada per arrivare all'Africa, è uscita dalle isole Falkland qualche minuto fa, adesso è sopra l'oceano, diciamo sarà 300-400 km di lontananza dalla terraferma, anche di più, fai 500. Allora qua c'è scritto live space station tracking map. Non lo so, io questo che guardo qua e ce l'ho sopra l'oceano adesso in questo momento. Non vorrei che magari voi state guardando delle immagini che non sono in tempo reale, magari di 2 ore fa, di 3 ore fa. Bisogna appurare, bisogna guardare altri siti. Cosa hai detto Luca? Mi sento, porca miseria, Hot Station NASA Gov, tu hai robe, perché qua non mi caricava la pagina, io stavo guardando N2 e Y-O. Vabbè, vai vicino alla Somalia per caso. No, vabbè. Dimmi Tino. Buonasera, sono a 5 cm dall'Argentina, dai, diciamo, in mezzo all'oceano Atlantico meridionale. Infatti, quello che sto dicendo io, ha superato le isole Falkland, adesso è nell'oceano, e loro invece probabilmente non è in tempo reale, adesso ne sto guardando un'altra per vedere, perché ci sono le applicazioni che ti danno delle immagini molto ritardate per diritti che c'hanno. Io ho guardato quello della NASA, quella NASA è l'istituto, diciamo quello che ha più diritti prima di tutti, ce l'ha in tempo reale. Vabbè, ISS Tracker. No, Alfa, guarda Alfa tu, e ti dà in tempo reale il coso dell'ISIS. Ciao, buonasera a tutti. Guarda, Rob, adesso non so se tu ce li hai delle strisce di colore di mare, praticamente questa è la seconda striscia, ecco, se ti segna così, eh. Aspetta, te lo dico su, adesso ho cambiato pagina perché sono andato a vedere un'altra. Guarda, sono delle colorazioni del mare, celeste chiaro, celeste appena più scuro, celeste ancora più scuro e così via. Adesso è, diciamo, appena oltrepassato la seconda striscia. Comunque si chiama, scusate, Alfa 59, chi ti fa vedere il tracker? Mi sono arrivata sul Corno d'Africa, a destra dell'Etiopia, ai confini col mare. No, è ancora sopra l'oceano. Voi avete immagini vecchie, non sono in tempo reale quelle che state guardando voi. E adesso si chiama il coso Alfa 59 e c'è scritto dati in tempo reale elaborati con l'algoritmo di ICS Tracker di Jacopo Branchini dell'ESA, Istituto Spaziale Europeo. Per cui questo è giusto, le altre penso che siano delle applicazioni che magari non hanno l'efficienza nel senso del tempo reale. A sinistra cosa c'è? Sì, sta superando, adesso se ne sta andando, è quasi a metà strada tra il continente americano e il continente africano. Ma poi era giusto perché io la stavo guardando in diretta questa roba prima, non poteva essere in Africa, dove la stavo guardando io perché era verso nord prima. In due parole, questo satellite cosa ci dice? Non ho capito, scusa. Ho detto in due parole, questo satellite, ma facendo male. No, dimmi cosa hai detto, questo satellite non è un satellite, è una stazione spaziale. Cosa ci dice? Allora, se alzi lo sguardo riesci a vederla benissimo, poco fa che non c'erano ancora le stelle, vedevi un oggetto, sembrava un'astronave nel cielo, che è presente a 400 km da noi e gira a 28.800 km orari, a 145.800, tu li puoi ascoltare quando ce l'hai sopra, adesso in questo momento non riesci a prendere. In Italia ogni giorno, nell'arco di 24 ore, passa 9 volte sopra l'Italia, e se sei fortunato di metterti a ascoltare nell'orario che passa, devi guardare gli orari, le tabelle, ti torni una soddisfazione di aver ascoltato la stazione spaziale internazionale. E così chi fa radioascolto tipo me sono belle cose. Io per il momento ancora non ci sono riuscito perché è stato in orari strani, come ho detto prima, all'una di notte, alle tre, oggi non so a che ora passi. Comunque Marco, lui un paio di volte ci è riuscito a collegarsi, Marco Condo. Sì, vabbè, lo so. Marco è un'altra cosa, lo sta seguendo il satellite, sì. Comunque avete parlato in due, c'era forse Muro, su tu eri che stavi parlando. Lo so, passano tre volte in orari strani. Quando l'avevo collegata alla scuola quest'anno, anzi nel 2019, non nel 2020, è passata verso le 10, ma è un caso rarissimo. Quello lì è una scuola professionale di informatica, di telecomunicazioni, e si sono collegati con gli studenti. Hanno parlato col comandante, in quel caso era un italiano, da poco è successo, mi sembra, verso ottobre, periodo lì, se non sbaglio. Poi a qualcuno non gliene fatti nulla, per cui tutto il discorso che abbiamo fatto non serve a niente. Marco, so che è un appassionato come lo posso essere io, ma puoi ascoltare anche con degli scanner e antennini in gomma, quando ti è presente il passaggio dura pochi minuti, il passaggio vero e proprio dura 10 minuti, però che la puoi prendere un paio di minuti, se poi c'è un'antenna che riesce a seguirla, una direttiva, riesce a sentirla un po' di più. Registrata, avanti che? Non è il controllo di radio, grazie. Sì, la radio è buona, il segnale 9+10, radio 5 non è amplificatissima, però è buona. E ormai è stato usato. Ok, grazie, Curix, a parte via Tonino. Chi sei, Tonino? Tonino Mosa. Mi fai la bravo T. Ciao, Tonino. Ciao, Tonino. Ciao. Vabbè, comunque sì, adesso mi ha la schermata di questo satellite, intanto sta arrivando in Africa. Ma ci impiega un pochettino. Bello se la ingrandisce, allora con questo programma non è tanto chiaro, perché devi vedere, ti dà anche la rotta l'altro, c'è un altro programma che adesso non mi ricordo, proprio vedi, proprio ti dà le ore, per dire alle 10.15, le 11, le 2, e ti dà esattamente il passaggio dove passa e la rotta, perché adesso magari è un po' bassa rispetto a noi, più a sud, però poi magari all'altro passaggio passa più su e riesci magari a beccarla. Sì, vabbè, è una cosa che sì, a chi piace, io al momento non sono neanche interessato, anche perché non potrei collegarla, quindi. Marco Scorpion, non so in Sardegna quanti ce ne siano, in Italia ce ne saranno pochi e nel mondo non penso tantissimi, è uno di quei pochi che lui l'ha collegata parlandoci, per cui è una cosa assolutamente rara e unica ed è una cosa assolutamente prestigiosa, perché ti mandano la QSL dalla stazione spaziale ed è una cosa, mamma mia. Lo so, me l'ha detto il primo giorno della collegata. Io sono a stretto contatto con tutti questi personaggi qua, quindi È un innovatore, Marco, sempre all'avanguardia, ha fatto anche la chiusura, l'ultimo viaggio e l'ultima comunicazione con la nave della Marina Militare, non mi ricordo se era la Maestrale o che cosa era, è uno di quei cinque che l'ha fatto il collegamento. Sì, so, conosco benissimo, siamo sempre anche ieri. Ok, comunque Marco Condor, c'è anche la stazione cinese, la stazione spaziale cinese, magari la lingua non so cosa parlino, comunque ci sono anche quelli cinesi. Eia, caspita, eppure questo è da appurare, sai cos'è? Che ho visto una marea di siti, tutti me la danno lì, come ti ho detto io, solo di sito che mi hai dato tu me la metti da quella parte là. È strano perché ti spiego, Robè, questo sito N2YO, quando andavo a Piazzale Segni a ricevere, corrispondeva proprio all'orario. Stanno prendendo tutti questa posizione da una fonte sbagliata, tutti questi siti. È possibile che 10-15 siano concordi e uno solo diverso? Boh. Non lo so, guarda, io guardavo sempre quella lì, poi non posso dire altro. Poi ce n'è un'altra più precisa, diciamo più dettagliata, che proprio ti dà la rotta prima che ci arrivi, la traccia del passaggio, e ti dà anche le ore di passaggio. E quella è ancora meglio, però adesso non mi ricordo come cercarla. Ieri notte alle 9 qua in Italia, diciamo l'Italia del Nord, quelli lo vedevano alle 9, in Sardegna un po' meno, c'era un allineamento di 400 satelliti artificiali di questo americano che sta facendo questo sistema di 10.000 o 12.000 satelliti, non so se lo sapevate. No. Comunque è bella grandezza, è bella manita la ISS, che ne so, rispetto a quello che poteva essere la Mir sovietica. La Mir in confronto era uno sgabuzzino, mi era un tugurio. Questa è bella, già lo credo, quando è bella illuminata al sole di notte deve essere spettacolare, però ci vorrebbe, che so, un telescopio per vederla bene con la macchina fotografica annessa e connessa, capito Robè? Guarda, io ti dico, Marco, io l'ho vista altre volte nel cielo stellato, la vedevi luminosa, per dire come Venere, come il pianeta Venere, magari riuscivi a averla forse un po' più luminosa, però come l'ho vista oggi sembrava un aereo, non so se vi capita mai a Platamona quando rientra l'aereo da Roma, da coso, verso Alghero, in certi orari lo vedi che ti arriva basso, una cosa del genere, era enorme, con questo cilindro con questa testa alta, fai conto, una protuberanza, tipo una motrice di camion, cioè presente, chiara argento, cioè, te lo sai questa cosa? Sembrava una vicella spaziale, ma parlo enorme, la stella è un puntino, questa era enorme, 10 volte, 50 volte una stella, proprio bella argentea, mai vista così luminosa come oggi perché era di giorno, c'era ancora un po' di luce, di giorno si fa per dire, era all'imbrunire, al crepuscolo, le altre volte l'ho sempre vista di notte piena, siete sul tracker di cose, ti dice esattamente dove alzi lo sguardo e te la vedi con il coso, con il tracker della posizione del piano stellare, dai. No, perché c'è ancora, anzi ci sono anche gli astronauti dentro, no? Non so se poi ne avevano qualcuna precipitata, ma non credo. Comunque questa qui è la più grande del mondo, perché 105 metri per 45, stiamo parlando di un campo di calcio messo nello spazio a 400 km, se ne cade quella fa danno, la stazione spaziale. Certo, ma dalla cinese? Non me la ricordo. Beh, su internet, sì, la stazione spaziale cinese frequenta e c'è scritto, ma ne hanno diverse, come questa ISS, ce ne ha 145,8 e quella VHF, poi c'è una sulle U a 4,36 e poi ce n'è una sulle onde millimetri, che mi sembra sia 1200 o 1250, non mi ricordo. Non lo so la frequenza di quella, ma se uno c'ha tempo di divertirsi ce n'è di cose da fare, ma può ricevere anche non solo le stazioni in corso, ci sono quelle a tempo, ci sono satelliti a tempo che danno dei segnali orari, eccetera. Se c'è tempo di fare ce n'è roba da ricevere. Ieri è capitata la prima volta 420 satelliti allineati sopra le nostre teste e vedi una strisciata sul cielo alle 21:30. Bisogna stare col naso all'insù, in zone anche belle alte, magari con poche luci ambiente, perché la città poi ti ruba molto quando guardi corpi celesti, satelliti. Sì, vabbè, c'è inquinamento luminoso, bisogna andare in posti poco illuminati. No, ma ripeto, oggi era bella perché non c'erano stelle ancora, era troppo chiaro il cielo. E vedi questo affare argento, sembrava un UFO, una cosa allucinante, ferma nel cielo, anche se non era ferma, non la vediamo ferma, sopra la testa, verso spostata, diciamo, direzione Porto Torres, verso un po' verso Alghero, dai, la vedevi questa cosa in cielo. cielo, a mezza altezza tra l'altro, neanche troppo alto, perché l'orbita è molto bassa rispetto ad altre cose, e vedi questa cosa assolutamente luminosa, è una luce riflessa, poi non è una luce come le stelle che sono luci, producono luce, luce diretta, la differenza è quello, tra un pianeta e una stella, una è luce riflessa e l'altra è luce diretta, perché la stella lampeggia, la vedi, mentre quell'altra è fissa, il satellite o la stazione, dico, è illuminata dal sole o il pianeta, è una luce fissa. Sai che mesi fa Antonello mi aveva detto, un pomponio, no? Che lui in alto dice, guardando verso Ossi, aveva visto nel cielo una fila di luci di, come punti arancione sospesi in aria. È rimasto abbastanza impressionato, solo che io non potevo verificare cosa potesse essere. Se uno vuole vedere cose strane, ci vai, che io ci sono andato, vai a Palo Arbarei, nella zona di Cagliari, vicino a Barumini. Se uno vuole vedere cose strane, inspiegabili, luci strane dopo le 10, quando inizia a imbrunire, andate di lì e non riuscite a capire che cosa si... C'è un amico mio che lui è appassionato, ha fatto anche un libro di queste cose e porta la gente a vedere. Questo paese si chiama Pauli Arbarei, nella zona bassa del Campidano, prima di Cagliari, sono una trentina di chilometri da Cagliari, e di lì ci sono delle cose inspiegabili, tutte le notti ci sono queste luci nel cielo, sono andati anche quelli della BBC, la RAI eccetera eccetera, però nascondono tutto perché è una cosa inspiegabile, probabilmente cosa, qualcuno se ci vuole credere, cose extraterrestri. E la stessa zona avevano trovato le tombe dei giganti, quelle ossa di persone lunghe 3 metri 4 metri di altezza, ci sono le ossa in quello stesso punto. Scusate, lo prendo io che vado, devo mollare, così mi faccio la doccia e poi una mattina. La mattina presto lavoro, quindi non mi posso trattenere. Vi saluto, buona nottata, ciao a tutti, riprenderò bene. E ciao Tino, ben sentito, dai, anche io tra poco vado, che domani si rientra, vabbè, io sono già rientrato, non mi sono mai fermato, ma domani è lunedì e si riparte. Ok, avanti per i saluti a Tino. Ciao Tino, dai, ci sentiamo. Ascolta, comunque hai verificato, no, scusa, non so se tu abbia i valori di riferimento su quel manuale, cioè quanto deve essere messo di fabbrica, se nel caso poi già ci sente in seguito. Ciao, buona serata, ciao. Avanti, chi vuole salutare Tino? Ciao Tino, a presto. Ma Fabio Master, ci sei? Bingo. Guarda che ho usato tutta la sera con la radiolina lì, va bene, nessuno mi ha detto nulla, sembra che giri bene, quindi con l'odata, insomma, la riscatolo e poi quando si potrà la deposito da chi sei tu. Ahi, guarda, ti ringrazio tanto, davvero, sono arrivato anche da trasporto, la scatola, eccetera, grazie mille, a buon rendere. Ma poi comunque costava più di quanto ricordassi, quindi hai visto scontrino, provenienza lecita, sai, di questi tempi meglio rifidare sempre. Da non so se l'hai rubata con lo scontrino. Comunque, prima l'hai rubata, poi sei tornato indietro, come si è tirata la cantiera, mi hai fatto lo scontrino e te ne sei andato. Ui. Perché altri c'è qua? Pochi comunque, da oggi... Dunque Robin, sono stancato troppo, c'è dal pomeriggio fino in radio, infatti sono abbastanza esausto. Oggi altro che rimanere fino a luna, oggi me ne andrò a letto prima, poi domani devo fare un bel di commissioni. No, vale, si può andare anche in giro, dai, se avete parenti da visitare, persone care, dirette, dai, congiunti, così si dice, si può andare. Che al cimitero si può andare a visitare il congiunto. Anche al cimitero? Non lo so, guarda, sinceramente non lo so, l'unica cosa che non ho sentito, tante cose, però del cimitero non ci ho fatto caso. In chiesa ancora non si possono assistere alle cose, alle messe, almeno per qualche giorno, sino all'11 mi sembra, l'altra settimana sì, però questa settimana ancora no. E poi cose che ho letto dei particolari, vabbè, fesserie che scrivono, le solite cose di certe attività, poi dovrebbero riaprire l'altra settimana, se Dio vuole, i parrucchieri e il 18 dovrebbero aprire il coso, il bar. E ora, non mi metto a nottare. Gianni, ti ho mandato l'ordinanza del sindaco che vale da domani, io non l'ho letta tutta, anzi non l'ho letta proprio, guarda se c'è la voce, comunque, piuttosto che andare a trovare i parenti me ne vado al cimitero. Mamma ma era una battuta la mia, non era una domanda, era una battuta. Siccome dice che per andare a trovare i miei cari, quindi io i miei cari ci sono al cimitero, posso andare anche. Ah, va bene, in quel senso, sì. No, io ho detto, piuttosto andare a trovare i parenti vivi, meglio andarsi al cimitero. Chissà se sono andati di zinga che hanno fatto razziare il rame. Oh, ma non ci rimangono mai attaccati ai cavi elettrici in rame, no? Ma sono furbetti, meno. Ve l'ho raccontato come fa? No, sono all'oscuro. Allora, adesso, vabbè, tutti i pali sono tutti in metallo, in cemento, eccetera, però ci sono ancora delle zone in campagna in legno, non so se le avete visti, loro vanno così, prendono il fuoco e ponono il fuoco sotto il palo, ne scende il palo, arrivano i vigili del fuoco, li chiamano, chiamano la legna, interrompete l'erogazione della corrente elettrica, che è pericoloso. Poi, dopo che hanno staccato la corrente elettrica, tanto non la riattivano subito la squadra, questo lo fanno sempre normalmente in orari, in modo che le squadre venga male, fanno loro, quando hanno staccato la corrente, c'è su e track e si bigliano il cavo e se ne tornano. Tutte le studiano. Ola, perché sta salendo con questi picchi questo apparato? Si rotta dei picchi anomali su Smith, ma c'era la molla dello Smith, fatta in economia. Luca, piuttosto c'era anche Luca qua, Luca Riello, sì. Beh signori, io me ne vado adesso, dai, che sono le 10:30, domani è tosta. Ciao a tutti, ciao Gianni, Doppio Room, ciao Fabio, ciao Marco e tutti gli eventuali amici qua in ascolto. Ah, c'è anche Claudio Damuro, scusa, mi dimenticavo. Tutti gli eventuali amici, io faccio corretti che domani si travacca. Ok, ciao ciao, aspetto il finalino di tutti e poi vado via, ciao ciao. Ciao Roberto, dai, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto, buon lavoro per domani. Veloce, tipo, sono andato in extra bip. Ciao Roberto, buonanotte, trabacco per domani. Ciao Roberto, speriamo ci siamo domani. Buon tutto. Da, signori, ciao a tutti. Vado a seppellirmi davanti alla TV. Già, Space, perché ti sento basso di radio? Boh, sei lontano? Sì, sto parlando a voce bassa. Hai capito? Sto parlando io a voce bassa. Ma cosa mi hai detto? Non ho capito. Ho detto adesso che sono entrato io, te ne stai andando. Sai cos'è già? Prima, praticamente mi sono addormentato qua sul divano, col baracchino. Anche c'ero dal pomeriggio, c'è tutta la sera dal pomeriggio, io poi non sono abituato a parlare troppo. Vedrai il mal di gola che mi verrà domani. Eppure io, ho mangiato il sushi e sono tornato. In realtà abbiamo esagerato anche come orario, tra pompone e coso, all'una e un quarto di notte abbiamo spento. Dove eravamo? Sul 10 o sul 15? Prima in FM, poi in AM o... No, prima in AM e poi in FM. E che era fatto il Pomponio? Allora c'era, all'inizio c'era Pomponio, Giovanna e chi altri c'era? Qualcun altro, uno almeno. Poi vabbè, Giovanna era in terrazzino, quindi tipo all'una meno un quarto ha spento. Per entrare dentro casa, è entrato zio Fester e io e altri due eravamo fino all'una e un quarto, dai. È resistito, dai. Sì, perché poi il sonno mi viene prima, no? Già, mi viene sempre verso, che ne so, le 8:30, 9, poi però fino alle 5 poi non prendo sonno. Poi ci sono i rari casi e riesco a dormire. Chi è sotto? Avanti. Ah, sentite un bip sotto. Bip. Allora battiamo il record oggi, Antonè. Oggi mi serve sì, perché c'è la parecchio in camera da letto, quindi. Adesso lo metto anche io, così imparate. Oh, ciao sì. No, ciao ciao, sono entrato a salutarti. Ciao Gianni, ciao ciao. Se poc'anzi credo che in stazione, però non so se ci sono o meno, o in quell'Xbox. Stavo ascoltando per il Rix, perché ero sdraiato e mi stavo guardando il telefono, dai. Poi finito di guardare sono entrato. Va bene, dai, vado. Marco, ti ho rimesso il bicchi tuo, Eia, no, prima non ho capito poi la risposta o mi sono distratto io. Cioè, quello ti dice a cosa servono le voci, però se necessario poi ti comunicherò quando capita i valori di fabbrica che vanno lasciati, capito? A parte il bip che te l'hai già personalizzato. Sì, no vabbè, ma poi ho provato anche il così c'è il Mickey Game, quindi ho visto che faccio un po' alto, insomma. Sì, ho visto che andava troppo in amplificazione, quindi l'ho rimesso come la prima, perché avevo regolato già il mic così, quindi è inutile alzare troppo l'amplificazione dell'apparato e poi devi resettare nuovamente il microfono. E ho preferito lasciarlo così, Marco. Eia. Poi la protezione stazionaria vabbè, sarà inserita, quindi non ti devi preoccupare. Da programma praticamente predefinito è stazionario a 20. Ho detto all'inizio, no, 20 è troppo, io voglio che stacchi almeno con 3 di stazionarie. Beh, ho messo a 3 e bastava 1 e 2 staccava già. Ho messo a 2 e staccava lo stesso, quindi bisogna lasciare il valore predefinito, poi già si arrangia la radio. Dunque è buona sta cosa salvo a finali, è molto molto buona. Sì, sì, vabbè, tieni in conto che io non sto usando il finale della radio e quindi ho preferito mettere massi watt della radio e sfruttare altri finali in maniera tale che mi riserva. Va bene, dai, vi saluto, scusatemi ma devo andare a fare una luce, stavo giocando col bambino, sono un paio di sudore e poi dovrò mattina devo alzare anche presto. Notte. Ciao ciao, divertite, una buona nottata, ciao ancora. Ciao Tino, ciao. Oh, comunque Antone, a parte gli scherzi dubito che per la stanchezza che oggi dubito che rimarrò al baracchino fino a quell'ora, anzi io adesso sto staccando, poi se ci siete più tardi provo. C'erano anche film belli, c'era Lady Hawk, poi cos'altro c'era. Così ne così, poi c'è un film che mi interessa alle 11:30, si chiama Shame, Vergogna, praticamente la storia di uno eccessivamente fissato col sesso e questa cosa gli rovinerà la vita anche, non riesce a uscirne, è come un drogato. E vabbè, poi c'è un bel film anche su 26 per questo, pornografico, capito? E spara a Cannata. Quindi c'è la coda d'onzo. Quello è questa la storia di Antonello. Chi è questo? Il maniaco scoltone. Ciao Fabio. Ciao. Ma quello del film almeno trombava di brutto, Antonello non tromba. Aspetta l'11, l'11 possiamo uscire di casa, lo sai quanti ne vedi, fidanzati, mariti, andando via al centro storico, non hai idea tutto lo sto dicendo io, ci sarà la fila, ci sarà. Occhio ai nigeriani, me, maschi, che quelli sono pericolosi. Non temo nulla io, ci ho vissuto via al centro storico 7 anni, quindi vuoi che non lo conosca. No, ma nel senso che ti inchiappettano me con la fame che hanno. Si faccia fare traccia. I trans non me li sono fatti, grazie a Dio, ma c'è passato con i trans, anche in discoteca non sono andato. A proposito di trans, c'è un transgender, cioè, su Facebook, l'hai visto Gianni? E chi è? Come si chiama? L'ho visto ieri, guarda, dice non mi scrivete a chiedere di farmi vedere il vostro coso. Ha scritto, tanto non me ne frega niente, più di quelli che prendo al giorno, ha risposto non mi interessa nulla. Guarda, se dopo controllo, ti dico chi è. Ma il nome di donna, cioè. Il nome di donna, sai, ciao. Cazzo, anche questo cosa ci fa qua? Guarda se è quello. Adesso guardo come si chiama, aspetta, te lo dico, perché passa nell'amicizia che vuoi conoscere, capito? Ma cazzo, io sto spazzolando, che vuole fuori il gabbo vero, cioè. E le assassini pure, mi. No, WhatsApp, guarda se è la foto che ti ho mandato. Non lo so, aspetta, c'è il telefono in camera da letto, c'è la Simona. Aspetta un attimo, che lo prendo. Ma che piccolo entrasse te lo fai, Marco? Bisogna provare tutto nella vita. D'altronde, se non provi, non sai se ti piace, no? Tutto, uomini, donne, mezzi. Sto scherzando, però se ci pensi, magari ti stai perdendo metà del piacere, cosa ne sai? No, io ho per questa disposizione, solo per... Fabio, a te sta dicendo. No, già, è per la modulazione che veramente passa. Alza appena. Guarda adesso, guarda per lei, 1, 2, 3, prova. Adesso tutta un'altra musica. Ho detto, da che zona moduli? Io da un attore. E tu, da dove ti stai uscendo? Io, zona Via Baldetta, dai. Baldetta, mi avevi consigliato molto forte, ora che si vede che può essere anche una bomba sopra, di bassa, perché adesso è molto chiaro, eh? Ma se parlo normalmente così, solo che per non disturbare sto parlando basso. No, campa, qui sul Trentino Empirico che ho io dovresti essere tipo 9, 9, 9, 9, 4, 9, 9, 5. Ma che antenna c'hai? Tra l'altro puoi vedere uno mentre sulla finestra con una piatta di metallo per adesso, aspetta un po' di una condominio. Che sta arrivando a Santiago di 4 qua, la radio è 2. La radio? 2 di radio, 2. Tra la radio basta, vabbè se vuoi tenere basta se non riesco. Sentiamo qua è impossibile perché quello che ti arriva vuol dire che sta ribaltando in mezzo ai palazzi, capito? Oggi? Cosa che c'è anche tu il sciopene, si chiama Salvatore o Salvatore? Salvatore si chiama. Via, c'è scritto Salvatore e Salvatore. E c'è proprio il tuo sciopene. Cosa c'è tanto il sciopene? Che c'è tanto il sciopene? Volevo parlare anch'io, questo si chiama Salvatore o Salvatore, ma non è cosa no? C'è la foto di Torre Scioppè, ho detto, si fa chiamare Salvatore Salvatore, aspetta un attimo, che dicevo quello là, quel transgender. Oi oi, con queste mode diventeremo tutti come Malgioglio e come Luxuria. Mamma mia, vabbè la mente aperta però, boh. Ascolta, si chiama Alessandra, con due S, c'è scritto transgender, che ha i capelli di colore neri. Antonè, guarda WhatsApp, è lui o non è lui? Vabbè, per me è troppo basso. Non so se lui, cosa ha detto? C'è scritto Alessandra con due S. Transgender, adesso controllo quello che mi hai messo su WhatsApp e vediamo se è lui. Marco, la radio è aumentata, è col macchino in basso. Mamma mia, io ho difficoltà a ascoltare, sto abbassando il volume troppo, dimmi già. Ho detto se la radio è aumentata, che è col macchino in basso. Sì, è aumentata, come l'hai aumentata, te l'ha detto anche cosa. Sono io che sto tenendo un volume molto basso per non dar fastidio a mamma che guarda la TV, capito? Sì, vabbè, ma questa radio che c'ho io spacca il culo agli uccellini, boh, come mai non mi senti? C'ho il volume quasi a zero, già. Ora. Si assomiglia un bene, Marco. Ma è lui? Quanti saranno, no? Questa è roba di oggi, credo. Ma ieri c'è presa pezza, quindi figurati. A me meno male non mi interpretano scusi gay e essere omosessuale. Ma che c'è da te parlare? In pratica c'è gente che voi conosce, capito? Mi è apparso a me ieri. Infatti voi si è messo a ridere. Poi c'è anche sciopero addirittura, vabbè, quello adesso gli chiedo amicizia perché sono un bel che non lo vedo. Ma anche lui è diventato transessuale? No, non è transessuale, è recente. Se lo vuoi conoscere, mi si chiama Salvatore, si fa chiamare Salvatore Salvatore, maestro di Chopin, quello che muoveva da baracchino tanti anni fa, nel 90 e cosa del genere lì. Ti dico che faceva il mercatino con Torino Kawasaki, Piero Daro, eccetera, eccetera. Sì, sì, il Torre Chopin me lo ricordo, è roba di splatter che prendevo. Ma sto dicendo, c'è anche lui. Lui riprendeva da me e dice, dottore, mi stacca a combinare, che non riesco a capirci nulla. Poi mi già, a quei tempi mi avevo il multimode 3, roba di splatter, mamma mia! No, io gli davo, io c'avevo l'ID quinto, MB più 2, poi due cose già Aristocratico meridiano. Aspetta, mi te l'ho mandato, mi già, credo che sia lui. Qualcuno mi ha detto che si stava esibendo con un oggetto lungo e duro. Che schifo, che schifo. Pomponio, mi si stava esibendo, Pomponio, con un oggetto lungo e duro. Un diploma magari no. Secondo il polo mi stavo esibendo sopra il tetto, me lo stavo infilando in culo così, e poi mi agganciavo i cavi e dicevo agli altri, io provo a modulare se ci sono stazionati, te lo faccio vedere io, se si allunga la lancetta si sposta. Oggi sai cosa ho mangiato, Marco? E cosa? A cena, sushi. Buono, buono, un po' costoso perché cavolo, ce lo fa ben pagare. Sì, buonino il sushi, anche a me stava piacendo, però se dovessi scegliere preferisco una bella pizza, cioè mi piacciono le cose molto saporite, molto cariche di sapore, e quindi alla fine, vabbè, e poi sì, costa un po' magari, so. Ecco, mi l'hai aperto, guarda che bello, guarda che bello. Madonna. Guarda, l'ho contato subito adesso. Dani, se ti devi solo il falcone. C'ho ancora la barba da naufrago. C'ho una barba che non vi dico. Fabio, riprendi. Calma, mando uno spinotto del ricevitore. Eia, ricevitore, eia. Caspita. Quei tempi quando si riceveva tutto, adesso non si riceve niente, a malapena era di motore. No, ma da così ho adesso di tabellare tutta una serie di frequenze, senza molta roba, molta roba, dai 17 ai 44 metri c'è roba interessante. Ah, in HF stai dicendo, no, io parlavo di V e di U, altre cose. Ah, no, no, io ho passione per quelle bande, una N, a sentire gente veramente, veramente lontana, a sentire astratti, come senti che sale che scende, tu senti che sale che scende, io ormai ce l'ho in testa così, no, per me, per me, poi sarebbero le radio BCL, così si chiamano. Sì, poi ci sono quelle fatte sulle isole, quelle bisogna monitorizzare un pochino su certe frequenze di stessa estensione. Io ho la fortuna di aver ricevuto mi hai beccato Number Station? No, io ho fatto, guarda, non so dove veloce, ne avevo segnato un paio di anni di frequenza, è così, è giusto a vedere che diceva qualcosa, logicamente si spostano un pochino e si è deciso, mi sono aiutato con il digitale, faccio basta come si mettono sugli adesivi, capito? La cosa più carina che ho trovato è stata Radio China International. Io meno, allora, per la radio AM passione meno per non dire nulla, io sempre bande amatoriali né in banda laterale. Avevo un ricevitorino Texun, certo non è roba professionale, però con l'antenna giusta tarata veicolare, perché io facevo ascolto veicolare, era bello silenzioso, non prendeva correme e prendevi molto bene le stazioni. Poi come tutte le cose me ne sono stufato, l'ho venduto, poi me ne sono pentito, adesso me lo volevo riprendere, solo che se non posso comprare o il rosmetro, il ricevitore, una ne posso scegliere. Boh. Guarda, io per ascoltare ho tre cose, ho questa specchia da Philips che fa volare molto molto molto preciso per essere, diciamo, non professional, non home, riesce a essere molto preciso, che tra l'altro sa che non è quattata, lo faccio. Tutti immaginate i miei sistemi fanno meglio di fatti i conti. Poi ho la Resta 1, la Kenwood, bellino, piccolino, compatto, da 0 a 900, anzi, purtroppo da 500, da 25 a 900 in grafica. E poi c'è la Jaguar, che ha le fanno così, le Jaguar, dunque loro. Diciamo che non sono di molto apprezzato, ma questa non si ferma, c'è quindi da dire che cos'è. Fabio, ti volevo dire che certe volte ho difficoltà a seguirti per via dell'eco, che è troppo marcato. Comunque ho capito, sì, l'RZ1, mi, in doppio room, l'RZ1, quello che va a coso, quel ragazzo, adesso non mi viene il nome. Poi il Black Jaguar è stato il primo ricevitore portatile che ho avuto da ragazzino. Però mi è rimasto nel cuore. E di buono aveva che potevi impostare i limiti inferiore e superiore da scandire. Mentre questi scanner di adesso, cioè non li puoi mettere tipo il limite che vuoi tu. Capito? Devi mandare in scansione, poi già hai capito, non hai limiti impostabili. Lì potevo fare proprio una scansione selettiva di una certa ristretta frazione lì. Ok, Gianni, vai. Sì. Io c'avevo lo UPT che faceva tutto, era bellissimo. Poi un giorno l'ho messo in carica, ha preso fuoco, non so perché. Ha cominciato a sciogliersi tutto quanto. Io sono entrato in cucina, sentivo un motore di bruciato, ho cazzato il battasciolo. Sì, la batteria, dalla batteria sicuramente è partito, si sarà rovinato un elemento, pigliato il fuoco tutto. Belli erano, porca miseria, come gli Uniten, AOR, poi gli AOR, vabbè. Comunque in HF ci vorrebbe una cosa bella, classica, tipo Kenwood R5000, vabbè che è superato. Adesso si usano questi SDR, ma devi dipendere dal computer, quello che a me non piace è avere questi ricevitori che devi stare attaccato al computer. A me piace la roba da portare in macchina, portatile, cavolo. E beh, se lo attacchi al telefonino, no? Al telefonino non lo so se li puoi attaccare i ricevitori SDR, può darsi pure che con l'adattatore, io non ne ho mai, non mi sono mai interessato perché credo che sia roba da computer, ma anche no, non ne so niente in poche parole. Però sempre attaccato al telefonino deve stare. Invece a me piaceva questo Texun 6E60, quello me lo sarei pure ripreso, però troppe cose mi stanno piacendo a me già. E alla fine non una ne posso prendere, no? Non posso spendere soldi a destra manca, soldi che non ci sono poi. Prendi quello che ti interessa e basta. Poi piano piano l'altra roba la prendi in seguito. Io non ho più interesse per il ricevitore, dico la verità, non ci prendo più gusto. Poi quando ci vediamo in verticale ti racconterò. Ok. Vediamo se c'è ancora Pomponio. Adesso mi ha passato il disturbo del ripetitore. Segnale 7. In tutti i canali ce l'ho. C'è anche Gianfranco Coso, c'è su Facebook, che se vuoi chiedere amicizia. Gianfranco Teschio, già te lo ricordi, quello che muoveva Baracchino. c'era la mudanza lì al centro, come si chiama, vicino alle Conce, Gianfranco Simula. Gianfranco Baltimora. Esatto, esatto, c'è anche Gianfranco Baltimora, c'è. Eia, ma su Facebook hai detto? Sì, sì, su Facebook, sì, esatto. E allora non c'è pericolo, dai. Vatti Giovanna. Ciao, bella ruota, chi siete? Ciao Giovanna, ci fa piacere almeno una voce femminile a quest'ora. Grazie. ci vuole, dai, per darci un po' di dolcezza in questo canale, che siamo tutti quanti nervosi. Come va, come va? Tutto ok, tutto ok. Marco, Marco. Ciao Giovanna, ben risentita. Ieri notte te l'ha detto tuo fratello, all'1:15 abbiamo spento. Dei mancanti, guarda. Dai, questa volta non sono le 5 di mattina, però non. Questo venerdì che viene, magari. Antonè, io a tuo fratello gli devo tirare le orecchie, io ti sento sempre bassa di radio, è una cosa. Antonè, ma non c'è un baracchino squillante, che esce squillante, bello, limpido, porca miseria.